He's out there on television ads right now, unfortunately attacking me. Il dibattito repubblicano, sentite la voce di Mitt Romney che sta attaccando Santorum, è stato il primo dibattito in 20 giorni in preparazione delle elezioni in Michigan. I would put a ban on earmarks. Our games are successful. But while I was fighting to save the Olympics, you were fighting to save the bridge to nowhere. Avete sentito questo attacco diretto mentre io cercavo di salvare le Olimpiadi, tu finanziavi i ponti che non vanno da nessuna parte. È stato questo il primo scontro diretto, Santorum sotto attacco per la questione degli earmarks, per quelle appropriazioni che vengono allegate a dei progetti di legge e che finiscono per avvantaggiare delle comunità locali. E era stato Romney ad essere messo sotto accusa da parte di Santorum, il quale gli aveva detto: tu quando gestivi le Olimpiadi di cui ti vanti tanto, in realtà hai favorito delle appropriazioni che erano del tutto inutili. A quel punto gli ha risposto Romney: guardati allo specchio, perché sei tu che hai finanziato i ponti che non portano a nulla. È un modo di dire per rappresentare queste spese che vengono in continuazione allegate a dei progetti di legge in modo da poterli far passare, che in realtà vanno a finanziare dei progetti del tutto inutili. Dunque una situazione piuttosto tesa sul fronte repubblicano. Santorum si trova in generale in testa e dunque si è trovato sotto attacco anche da parte degli altri. Sentiamo Ron Paul. Particularly this week, Senator Santorum, you have a new television ad that labels him a fake. Why? Because he's a fake. Avete sentito Paul in attacco diretto? Beh, Santorum è un fake, cioè un finto conservatore. Non è vero che quello che lui dice di essere rappresenti in realtà un'aderenza concreta alle sue promesse. Perché dice questo? Beh, perché in effetti Santorum non è un fiscal conservative, è più un religious conservative, cioè è un repubblicano che aderisce a quei valori tradizionali sul fronte religioso, sul fronte sociale, ma non necessariamente sul fronte fiscale. Al coro degli attacchi generici si è unito anche Newt Gingrich, che era tuttavia in tono leggermente minore. You did not once in the 2008 campaign, not once did anybody in the elite media ask why Barack Obama voted in favor of legalizing infanticide. Qui Gingrich soprattutto attacca Romney. In realtà il ruolo di Gingrich ormai è un ruolo di secondo piano. Il candidato che sembrava potercela fare sul fronte dei conservatori è di fatto fuori corsa. Credo che sia questione di giorni un annuncio del suo ritiro.